Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie per tornare alla sua normalità. E la scuola, come Itaca, è divenuta terreno di contesa. Ma Ulisse alla fine ce l'ha fatta, è riuscito nell'impresa di tornare a casa. E così come Ulisse, la comunità docente e discente oggi torna alla sua isola, alla sua scuola. Un'emozionatissima ministra dell'istruzione Azzolina, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, commossa oggi a Davao Euganeo, insieme anche al Presidente della Repubblica Mattarella, che ha inaugurato l'anno scolastico proprio là dove c'è stata la prima vittima di coronavirus. L'avete sentita molto emozionata con questa metafora della scuola come Itaca e del personale docente e tutto il personale, insomma, della scuola e gli studenti come Ulisse. Si riparte, insomma, ritornano alla loro isola e finalmente, almeno oggi, data ufficiale della ripartenza della scuola, in gran parte delle regioni le aule hanno riaperto e personale docente e gli studenti sono ritornati finalmente a scuola. Molti entusiasmi, qualcuno era molto pronto, qualcuno invece addirittura rimandato, altri si trovano in situazioni un po' critiche. Comunque, insomma, farò un punto su questa prima giornata ufficiale della ripartenza della scuola. Poi torneremo a parlare dei sviluppi dell'inchiesta sul terribile omicidio di Maria Paola Gaglione a Caivano per mano di suo fratello. E poi, per sollevarci un po' gli animi, parleremo di meteo e del fatto che la Versilia, fiduciosa che l'estate sarà lunga, ha deciso di allungare la propria stagione estiva fino al 1° novembre. Ce l'auguriamo tutti, insomma, credo, spero, anche proprio per il bene dei commercianti, dei gestori delle spiagge, di tutto l'indotto e anche di chi, insomma, può e vuole rilassarsi. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, i vostri commenti sulle principali notizie del giorno, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Allacciate le cinture che si parte. Scuola al via, ritorno in classe per milioni di studenti, una sfida decisiva per la ripartenza dell'Italia, sottolinea Mattarella. L'epidemia di coronavirus in Italia, contagi in calo ma anche il numero dei tamponi. Berlusconi lascia il San Raffaele, ottobre e novembre, mesi critici per l'Europa, secondo l'OMS. Il delitto di Caivano, resta in carcere il fratello della vittima, per la GIP è socialmente pericoloso e c'è il rischio della recidiva. Stati Uniti, gli incendi non danno tregua alla California e all'Oregon. Meteo, in previsione di una lunga estate, la Versilia allunga la stagione degli ombrelloni sino al 1° novembre. Spazio su Venere, una possibile spia della vita. Partiamo quindi dalla ripresa ufficiale della scuola, che è ripartita in 12 regioni, nella provincia di Trento anche sono tornati in classe quindi 5,6 milioni di studenti. Questo pomeriggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico a Vo Euganeo nel padovano ex focolaio Covid. Per il Presidente del Consiglio Conte si è trattato di una giornata importante per la comunità nazionale e sottolinea: mai come quest'anno stiamo investendo molto nella scuola. Commossa, l'avete sentita, la ministra Azzolina. Radio 24 Day. Continuiamo quindi a raccontare la scuola in questa giornata speciale. Una classe è finita in quarantena dopo mezz'ora che era entrata in aula in provincia di Massa Carrara. A Bologna gli studenti di 3 istituti superiori hanno iniziato le lezioni in un padiglione della Fiera di Bologna. Bambini in ginocchio a Genova perché avevano le sedie ma non i banchi. Tante le criticità registrate oggi, tanta anche la fantasia dei dirigenti scolastici per consentire a tutti di cominciare le lezioni. Fra tenso strutture montate in giardino, lezioni nelle palestre. Però la campanella è suonata e l'anno scolastico è cominciato. La paura del primo giorno è passata, i ragazzi sono entrati con le mascherine, anche se quelle di Arcuri non sono arrivate dappertutto. I banchi nuovi stanno via via arrivando e quelli che ci sono ben distanziati, o quasi. Tra me e lei c'è mezzo metro tra quello davanti a me, siamo 2 centimetri. Ma se ci sono i banchi e non gli insegnanti, i ragazzi non ci fanno un granché. E allora adesso restano da risolvere i problemi antichi della scuola, primo fra tutti quello degli insegnanti. Sarebbero ancora 100.000 le cattedre vuote e resta da risolvere il problema degli insegnanti fragili, che non possono entrare in classe ma neanche fare didattica a distanza. Altri supplenti dunque da cercare. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un pensiero particolare del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato agli studenti disabili. Sentiamo le sue parole durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico che quest'anno, vi dicevo, si è tenuta a Vo Euganeo nel Padovano, fra le prime zone a chiudere per l'emergenza coronavirus. Sentiamo Mattarella. Mesi duri per tutti, ma a subire le conseguenze più pesanti del lockdown sono stati gli studenti con disabilità. Per tanti di loro le rinunce hanno avuto un costo altissimo, a volte non sopportabile, e di queste sofferenze si sono fatto carico le famiglie. Nella ripartenza della scuola l'attenzione a questi studenti deve essere inderogabile, a cominciare dall'assegnazione degli insegnanti di sostegno. E in questa giornata particolare come è andato il trasporto? Affollamento al di sotto delle previsioni e misure di sicurezza rispettate, prova in generale superata per il trasporto pubblico locale ad aiutare l'apertura delle scuole a macchia di leopardo con orari differenziati. Il presidente di ASTRA, Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico, Andrea Gibelli. Il bilancio è positivo, la differenziazione dell'apertura delle scuole e la differenziazione di orario ha in qualche modo consentito, con la capacità di carico prevista all'80%, di fare un servizio in sicurezza. A Roma, fa sapere l'ATAC, la metro era piena al 33% e i mezzi di superficie leggermente più affollati rispetto alla scorsa settimana, ma in media lontani dal limite dell'80%. L'azienda ha poi potuto contare su 70 autobus in più sulla linea scolastica, solo una prima parte dei 328 promessi dalla sindaca Raggi. Mezzi aggiuntivi e orari differenziati hanno aiutato anche in altre città, ma quello di oggi è comunque solo un primo test. Per capire se la macchina sarà in grado di reggere, occorrerà aspettare almeno una settimana, anche se a regime per l'Astra nei prossimi mesi si prevede comunque un meno 20% di afflusso dovuto alla stabilizzazione dello smart working. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Andiamo sui dati del coronavirus dopo una relativa tregua, almeno in termini di vittime. In autunno la pandemia tornerà a mostrare gli artigli in Europa, che dovrà prepararsi ad avere più morti. Questo è l'allarme che già serpeggiava in vista della fine dell'estate, è stato confermato oggi dall'OMS nel giorno in cui ha certificato l'Organizzazione Mondiale della Sanità un record di nuovi contagi nel mondo, 308.000, e ha invitato a comportamenti individuali ancora più prudenti, come evitare anche il saluto con il gomito, perché dice la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle. Per quanto riguarda l'Italia, con l'andamento della curva dei contagi continua lentamente a salire, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.008 nuovi casi, 450 meno di ieri, ma con ben 27.000 tamponi in meno oggi. E scoppia la polemica sul vaccino antinfluenzale che dovrebbe essere disponibile a partire dalle prossime settimane, ma governo e regioni hanno trovato l'accordo per rivedere le quote delle dosi da destinare alle farmacie. I viaggi di Radio 24. Parliamo di politica e dell'Election Day 20-21 settembre. Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia sono queste le 7 regioni che rinnoveranno col voto del 20-21 settembre Presidente e Consiglio regionale. Oltre al referendum, al voto in tutta Italia e a 962 comuni chiamati alle urne, gli elettori di queste 7 regioni troveranno una scheda in più. Un appuntamento che riguarda oltre 18 milioni di votanti. 7 regioni, ognuna con propri candidati e temi sul tavolo. Ve li raccontiamo in questo nuovo viaggio di Radio 24, cominciamo dalla Puglia. In un paragone con gli Stati Uniti c'è chi l'ha definita l'Ohio italiana, perché la Puglia potrebbe essere uno snodo decisivo per gli equilibri della politica nazionale. Qui il voto regionale fotografa le difficoltà nel trovare alleanze locali incontrate dalla maggioranza giallorossa, che schiera ben 3 candidati. Il Partito Democratico, con parte del centro-sinistra, punta sul governatore uscente Michele Emiliano. Il Movimento 5 Stelle si affida alla passionaria Antonella Laricchia, mentre Italia Viva schiera Ivan Scalfarotto, sottosegretario nei governi Renzi e Gentiloni e attivista per i diritti LGBT, per conquistare la regione da 15 anni guidata dal centro-sinistra, il centrodestra unito candida invece Raffaele Fitto, ministro nei governi Berlusconi e già governatore pugliese sconfitto da Nichi Vendola nel 2005. È lui lo sfidante più accreditato di Emiliano. In una corsa che si è giocata più sui temi nazionali che su quelli locali, come il futuro dell'Ilva di Taranto, il rilancio del turismo, della sanità e dell'economia di una regione che punta a diventare la locomotiva del Sud. A completare il quadro dei candidati sono Pierfranco Bruni del Movimento Sociale, Andrea D'Agosto di Riconquistare l'Italia, il fuoriuscito pentastellato Mario Conca e il comunista Nicola Cesaria. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso invece andiamo in Valle d'Aosta. 12 liste per una poltrona in piazza di Fiei e per superare le inchieste sui condizionamenti dell''Ndrangheta che portano la Val d'Aosta al voto in anticipo dopo le dimissioni dell'ultimo presidente. 5 gli ex governatori che si ripresentano in una regione solo lambita dal virus. I temi di politica nazionale fanno da sfondo nella corsa delle liste della Lega Val d'Aosta, del Progetto Civico Progressista, l'Unione Fratelli d'Italia e Forza d'Italia o quella del Movimento 5 Stelle, mentre Italia Viva corre insieme all'Alleanza Valdoten Stella Alpina. Debutto per Val d'Aosta Futura, che ripristina il sogno di una zona franca e primi passi anche per il movimento Pays d'Aosta Souverain, che dice di puntare al territorio. Se la tutela degli animali è il cuore del partito animalista, piano regolatore, rifiuti, sanità e valorizzazione del turismo dominano nei programmi di Val d'Aosta Uni, dell'Union Valdoten, del Rinascimento Val d'Aosta, mentre sull'autonomia punta la lista che già col nome ne fa la sua battaglia. Nella regione a statuto speciale il presidente non è eletto dai cittadini ma votato dal Consiglio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al delitto di Caivano, rimane in carcere Michele Antonio Gaglione, il fratello di Maria Paola Gaglione, la ragazza morta dopo essere caduta dallo scooter sul quale viaggiava con il compagno trans, uno scooter inseguito e poi speronato dal fratello. Per la Jeep Michele è socialmente pericoloso, c'è il rischio della recidiva e quindi ha convalidato l'arresto. Ciro invece, il compagno di Maria Paola, chiede di vederla per un'ultima volta, ha raccontato delle minacce di morte, delle aggressioni fisiche verso Maria Paola da parte della famiglia di lei. La madre di Ciro dice che i familiari di Maria Paola devono pagare, tra poco torniamo su questa storia orribile. Un'altra storia orribile viene dalla Somalia. La polizia della Somalia sta indagando sullo stupro e l'omicidio di una ragazza di 19 anni in un albergo della capitale, Mogadiscio. A oggi 4 uomini sono stati arrestati in relazione alla morte di Amdi Mohamed, avvenuta nel quartiere di Waberi. I media locali riferiscono che la ragazza è stata violentata prima di essere gettata da un edificio di 6 piani e la sua famiglia ha chiesto un'indagine completa sul caso che ha suscitato indignazione in città. Le donne infatti hanno manifestato nella capitale somala in sostegno della famiglia e chiedendo indagini che portino in carcere i responsabili. Il caso Navalny. Le condizioni di Alexei Navalny migliorano. Il dissidente russo può in certi momenti anche alzarsi dal letto. Lo hanno riferito al Charité di Berlino, dove è ricoverato dal 22 agosto per un avvelenamento. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, ha cancellato la visita di domani a Berlino. Lo fa sapere il ministro citato, il ministero citato dalla TASS. I partner occidentali, dice Lavrov, della Russia hanno superato ogni limite di decenza e buonsenso, perché sapete che buona parte di Europa accusa la Russia di questo avvelenamento. Incendi negli Stati Uniti, il fumo sprigionato dagli incendi nella costa ovest degli Stati Uniti ha fatto registrare a San Francisco, Seattle e Portland alcuni dei peggiori valori sulla qualità dell'aria nel mondo. I roghi hanno causato finora almeno 35 morti, di cui 24 in California e una decina in Oregon. Di nuovo in Italia adesso con i fondi della Lega e l'inchiesta Lombardia Film Commission che vede domiciliari 3 commercialisti. Sale il numero degli indagati per peculato nell'inchiesta milanese Lombardia Film Commission, ora sono 9. Oltre ai commercialisti di fiducia della Lega e all'imprenditore Francesco Baracchetti, figurano anche Pierino Maffeis, Elio Foiadelli e Vanessa Servalli, amministratori di società riconducibili e professionisti finiti ai domiciliari, e il presunto prestanome Luca Sostegni. È stato quest'ultimo a rivelare in un interrogatorio che uno dei commercialisti di fiducia della Lega, Michele Scilieri, avrebbe ricevuto l'incarico di vendere la sede del partito di Via Bellerio, un incarico che avrebbe avrebbe ottenuto grazie all'amicizia con l'altro commercialista del Carroccio, Alberto Di Rubba, il quale era collaboratore di stretta fiducia di Salvini e considerato nella Lega uomo della svolta, stando a quanto messo verbale da Cristina Cappellini, ex assessore lombardo alla cultura. La sede, ha spiegato sempre Luca Sostegni, andava venduta perché si correva il rischio del sequestro dalla Procura di Genova in relazione alle indagini per la truffa sui rimborsi elettorali. Intanto, un altro commercialista indagato, Andrea Manzoni, nega che vi siano mai stati, almeno nel periodo di sua competenza, 49 milioni sui conti del Carroccio. Quella, ha affermato, certo non era la cifra di cui poteva disporre il tesoriere. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Meteo, in previsione di una lunga estate, la Versilia allunga la stagione degli ombrelloni sino al 1° novembre. Poi cercheremo di capire se effettivamente quest'estate dura così a lungo. Per chiudere, spazio su Venere, una possibile spia della vita è la fosfina, è stata individuata, o fosforo di idrogeno, un gas che sulla Terra è prodotto solo industrialmente o da microorganismi in ambienti privi di ossigeno. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, è del gruppo di astronomi dell'Università Britannica di Cardiff. Bene, con questo si chiude questa prima parte della puntata, la sintesi della giornata. Vedo tra i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Paolo, che a proposito della ragazza uccisa dal fratello perché dice stava con un trans, ma che mondo, che società e che cultura siamo. È proprio vero che a seminare vento si raccoglie tempesta, povera innocente ragazza, dice Paolo. A tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E il giorno tanto atteso, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e anche un poco temuto, diciamo la verità, è arrivato lunedì 14 settembre. Oggi tutti presenti, credo almeno in buona parte, data la riapertura ufficiale appunto di oggi della scuola in Italia dopo 6 mesi di chiusura, lo sapete, per l'epidemia di coronavirus e poi la pandemia nel mondo, chiuso per tantissimi milioni e milioni di ragazze e ragazzi. Poi sapete che il calendario scolastico è di competenza delle regioni, quindi qualcuno ha aperto prima, qualcuno aprirà anche da dopo il 22, da dopo le elezioni, però insomma oggi in 12 le aule, 12 regioni, sono ripartite. Sono tornati a scuola a livello di numero 5,6 milioni di studenti, poi ci sono istituti che erano prontissimi, quelli che ancora adesso sono un po' in affanno, chi ha già la mensa allestita, chi invece dovrà aspettare, chi ancora non ha i banchi. L'avete sentito, c'è anche qualcuno in Liguria, ragazzi che hanno dovuto scrivere sulle sedie in ginocchio per terra, insomma qualcun altro che ha così, diciamo, un po' scatenato la fantasia per riorganizzare le scuole pensando a lezioni anche all'aperto, in parchi, in chiese, eccetera. Comunque il Presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato oggi l'anno scolastico a Vo' Euganeo. Voi sapete, vi ricordate, nel Padovano, dove c'è stata una delle due prime zone rosse, dove c'è stata la prima vittima del coronavirus. Conte l'ha definita una giornata importante per la comunità nazionale, a cui ha detto guardiamo con fiducia ed entusiasmo, mai ha sottolineato come quest'anno stiamo investendo molto nella scuola. La ministra Azzolina, anche lei a Vo', ha detto con voce commossa è arrivato il momento di riportare la scuola al centro del sistema paese, di rilanciare come istituzione di primaria importanza, dove davvero si gettano le basi dell'Italia di domani. Sentiamo allora Mattarella. La inaugurazione dell'anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva. Ripartire da Vo' Euganeo dà ancor di più il senso di come questa sfida riguardi l'intero paese. Così come qui a Vo', dopo l'angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo la vita, così la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita dell'Italia. E a questo proposito di ripresa, sempre il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto questi sono giorni di speranza. È stata dolorosa la decisione di chiudere le scuole, necessaria ma dolorosa. La scuola ha nella sua natura il carattere di apertura, di socialità, di dialogo tra persone, fianco a fianco. Avete sofferto, ragazzi, e abbiamo sofferto tutti per gli impedimenti e per le limitazioni. La scuola è specchio della società e ne esprime le difficoltà, ne riflette le aspettative. Ecco perché questi giorni in cui le scuole ripartono e si popolano nuovamente dei loro studenti e insegnanti sono giorni di speranza. E poi ancora Mattarella ha detto: conosco i ritardi, le difficoltà, so bene che vi saranno inevitabili polemiche, dice, però il paese non può dividersi nel sostegno nei confronti della scuola. E poi naturalmente la ministra Azzolina, che è stata un po' la protagonista di questo lungo percorso verso la riapertura della scuola, bersaglio delle polemiche, degli attacchi, però naturalmente non è dipeso soltanto da lei, e poi abbiamo ripetuto tante volte e sono veramente dei frangenti eccezionali. Sentiamo la ministra Azzolina piuttosto commossa. Non abbiamo mai perso la speranza e l'abbiamo trasformata in azione. E così, nonostante il vento contro, i nostri remi sono stati fatti, le nostre menti e le nostre braccia sono state tutto il personale scolastico, la nostra forza sono state le azioni concrete. Quello che abbiamo costruito giorno dopo giorno e che ci hanno permesso di raggiungere prima il traguardo degli esami di Stato e poi la riapertura delle scuole oggi. E poi l'avete sentito all'inizio, questa metafora di Itaca e di Ulisse per quanto riguarda la scuola, per l'appunto, e tutte le persone che della scuola fanno parte. Le avversità e gli ostacoli di questo viaggio mi hanno fatto pensare ad Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare nell'amata Itaca. In molti avevano tentato di convincere Ulisse a desistere dal tornare a casa, altri avevano diffuso notizie false sulla sua morte. Itaca era stata presa d'assalto da persone che non volevano quella terra per amore, ma solo per tornaconto personale. In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie per tornare alla sua normalità. E la scuola, come Itaca, è divenuta terreno di contesa. Ma Ulisse alla fine ce l'ha fatta, è riuscito nell'impresa di tornare a casa. E così come Ulisse, la comunità docente e discente oggi torna alla sua isola, alla sua scuola. E vedo adesso degli aggiornamenti da Palazzo Chigi, arrivano delle dichiarazioni nella riunione del Presidente del Consiglio Conte e dei Ministri sulla scuola. Leggo: si è preso atto con soddisfazione, quindi diciamo il bilancio della giornata, che la scuola è ripartita, che le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel rispetto delle regole sanitarie, sono stati affrontati tutti i vari nodi relativi all'organizzazione e alla ripartenza della scuola, dai trasporti alla modalità d'ingresso e uscita dagli istituti scolastici, dalla fornitura di banchi, mascherine, fino alle questioni più strutturali che riguardano il mondo scolastico. A proposito di mascherine, ecco questa un'altra dichiarazione: sono stati aggiornati i numeri del materiale sin qui distribuito. A oggi sono state fornite gratuitamente 136 milioni di mascherine chirurgiche nelle scuole di tutta Italia. E poi anche per quanto riguarda i banchi, quest'altra dichiarazione: anche la fornitura dei banchi monoposto e delle sedute innovative procede senza sosta. Viene questa nota da Palazzo Chigi: in 10 giorni sono stati messi a disposizione 200.000 banchi, pari alla stessa quantità che ordinariamente viene prodotta in Italia in un anno intero. Entro fine ottobre saranno distribuiti agli istituti scolastici 2 milioni di banchi monoposto e 400.000 sedute innovative. Però naturalmente resta per esempio il problema delle cattedre vuote, sono circa quasi 100.000, i problemi, abbiamo detto, le criticità sono varie, anche se questo è un problema in realtà che dura da almeno 20 anni. Sentiamo oggi a 24 mattino qui a Radio 24 Patrizio Bianchi, docente di economia e politica industriale all'Università di Ferrara, che è stato coordinatore del Comitato Nazionale degli Esperti del Ministero della Scuola per il rilancio dell'istruzione, per il rilancio della scuola. Io ho sentito continuamente la parola torniamo alla normalità, torniamo alla normalità, come se la normalità della nostra scuola di prima andasse tutto bene. No, noi non dobbiamo tornare alla normalità di prima, dobbiamo tornare ad una scuola molto migliore di prima, perché i dati complessivi della nostra scuola ce l'hanno segnalato tutte le istituzioni internazionali, tutte dall'Istat fino all'Invalsi, non andavano proprio bene bene. Noi avevamo tanti ragazzi che non finivano la scuola, avevamo dei risultati che non erano proprio buoni, e avevamo soprattutto quell'indice molto brutto di, diciamolo, incompetenza digitale, che poi si è visto alla prova dei fatti. Quindi dobbiamo andare molto oltre la normalità. Quindi io credo che sia un problema non di resistenza sindacale, ma di resistenza collettiva. C'è un'attitudine di tutti noi ad avere difficoltà ad affrontare questi temi, e dico noi adulti per non dire noi vecchi, soprattutto nel momento in cui c'è stato un salto tecnologico come quello che abbiamo di fronte. L'avete sentito poi nella prima parte di Effetto Notte, anche l'attenzione di Mattarella per esempio per i ragazzi disabili in questa riapertura della scuola. Sentiamo questo servizio della collega Cristina Carpinelli. Sono circa 284.000 gli studenti disabili in Italia, per loro forse più che altri questo rientro a scuola è la vera fine di una lunga fase di isolamento. Si era detto per questo che sarebbero stati i primi coloro ai quali dedicare le maggiori attenzioni, che passano anche dalla qualità dell'insegnamento, e invece il dato collegato alla continuità didattica preoccupa e non poco le famiglie. Si rischia di avere tra i 70 e gli 80.000 insegnanti di sostegno precari, una fatica che, lamentano le associazioni degli insegnanti di sostegno, poteva essere evitata se il Ministero avesse accolto la richiesta di prorogare almeno per quest'anno l'incarico anche agli insegnanti di sostegno precari. Insomma, una fragilità che non viene trattata con gentilezza. Teresa Bellini, del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità. Noi ci sentiamo, come al solito, abbandonati. Nelle varie situazioni di criticità, alla fine chi paga le spese è sempre la famiglia. Non marginale anche il tema sulle misure di sicurezza. I protocolli del Comitato Tecnico Scientifico parlano di accomodamenti ragionevoli per garantire la sicurezza e la salute degli alunni disabili, ma la flessibilità come verrà trattata, ad esempio come si lavorerà con i ragazzi con spettro autistico, la paura dei genitori è che finiscano fuori aula interrompendo il progetto di integrazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi vi ricordate, ne abbiamo parlato proprio qui a Effetto Notte giorni fa con il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, del fatto che 4 giorni prima della riapertura della scuola, quindi la scorsa settimana, avesse emanato un'ordinanza in cui si obbligano le scuole del Piemonte loro a misurare la temperatura di ragazzi e ragazzi, di bambini e bambini, mentre sapete che il governo ha affidato questa incombenza alle famiglie. Come sta andando a Torino? Come è andata? Lo chiediamo alla nostra Filomena Greco. Sì, buongiorno a voi. La polemica a distanza fra la ministra Azzolina e il presidente della regione Alberto Cirio sulla misurazione della temperatura ha caratterizzato l'inizio dell'anno scolastico in Piemonte, con l'aggiunta che insiste sulla necessità che siano le scuole a testare la temperatura dei ragazzi. Nel caso ciò non fosse possibile, allora serve un'autocertificazione delle famiglie sul diario o su un modulo da consegnare ogni mattina. A Torino comunque si torna a scuola oggi, ma ci sono già istituti con una settimana di lezioni alle spalle, il caso del liceo classico d'Azeglio, dove le attività didattiche sono iniziate la settimana scorsa, non senza qualche dubbio da parte dei ragazzi. Sentiamo le loro voci. La temperatura bisogna misurarsela a casa? In teoria. Le mascherine dobbiamo tenerle sempre, a meno che non siamo seduti a un metro di distanza, però esatto, quando ci alziamo la dobbiamo mettere. Però se posso dire questo metro di distanza, perché nella nostra classe il metro di distanza in realtà non è che ci sia, perché siamo in 23, tra me e lei c'è mezzo metro, tra quello davanti a me siamo 2 centimetri. La didattica a distanza resta un'opzione. Per la scuola superiore al D'Azeglio, ad esempio, saranno 8 le classi a lavorare con queste modalità per la carenza di spazi. Al liceo scientifico Galf invece le classi vengono divise in 3 gruppi e a turno si resta a casa per le lezioni. Accanto ai problemi straordinari di questo anno scolastico restano i nodi di sempre. Soltanto nella provincia di Torino, ad esempio, mancano all'appello circa 7.000 insegnanti. Linea allo studio. Grazie alla nostra Filomena Greco. E c'è Alvise che scrive al 349-238-6666. Fanno piacere le parole di Mattarella, Conte, Azzolina. Adesso per una volta ci aspettiamo i fatti che per ora non si sono visti, per quello che appunto è l'esperienza di Alvise. Sentiamo invece delle voci anche delle studentesse, degli studenti dell'Istituto Schiaparelli di Milano. Io me l'aspettavo fin dall'inizio che sarebbe stato così, sono abbastanza tranquilla. Io sono felice di tornare a scuola perché conoscerò nuovi compagni e nuove professoresse, e il fatto di conoscerli dal vivo e non online mi fa molto piacere. Queste delle voci raccolte da nostra Rosanna Magnano. Per chiudere, il presidente dei presidi italiani Giannelli al microfono di Piera Ceci sulle criticità. Come abbiamo detto, le criticità ci sono, non vanno ignorate, non vanno neanche saltate. L'importante però è riuscire a correggere il tiro in corsa. Quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che noi abbiamo fatto ripartire una macchina enorme che ha problemi da sempre. Ora, con il Covid non è che i problemi diminuiscono, i problemi semmai aumentano. Ecco, questo mi sembra un'affermazione di una banalità assoluta che però non sempre si ritrova nel dibattito quotidiano. Certo, però Giannelli, sono anche arrivati un po' di soldi finalmente alla scuola, quindi magari chissà che quando tutto questo ambaradan sarà finito non resterà qualcosa di buono alla scuola, se non altro questi banchi nuovi, ecco, minimo. Io ne sono convinto, do atto, l'abbiamo fatto più volte al governo e alla ministra, di aver fatto arrivare sicuramente molte più risorse che in passato, però dobbiamo avere il coraggio e la capacità progettuale di andare al di là dell'emergenza. Voglio dire, i banchi vanno benissimo, le mascherine vanno benissimo, noi però dobbiamo ripensare la nostra scuola che aveva tanti problemi prima del Covid. Ne dico una per tutte: il divario terribile negli apprendimenti tra il nord e il sud, tanto per cambiare. E quindi dobbiamo fare in modo che questo si sani, dobbiamo fare in modo che la scuola ritorni a essere un ascensore sociale, funzione che ha perso da molto tempo, come dicono tutte le indagini. E intanto ci sono alcuni ascoltatori che stanno ritornando all'ascolto. Siamo alla terza settimana della nuova stagione di Effetto Notte, quindi un po' in ritardo, probabilmente hanno allungato le vacanze, le hanno fatte dopo, le hanno fatte prima. Comunque erano assenti, evidentemente giustificati, ora sono presenti, giustamente. Giuseppe da Bergamo, per esempio, e Francesco. Giuseppe che dice, la prima occasione che ho di risentirti, eccetera, sono contento, non altrettanto piacere di sentire la ministra Azzolina che anziché parlare per metafore dovrebbe concentrarsi sull'efficientamento del sistema scolastico. Insomma, vediamo man mano come procede il corso e il percorso della scuola. Bene, direi che al momento possiamo prenderci una pausa di riflessione e poi dopo tornerò con gli ospiti per parlare del delitto di Caivano e poi parleremo anche con un noto immunologo per esempio dell'OMS che dice che non bisogna toccarsi neanche col gomito e che ci potrebbe essere una recrudescenza anche di morti in Europa in autunno, insomma molte altre cose. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie, le più importanti, come sempre, d'Italia e dall'estero, le trovate qui, ve le racconto io in sintesi all'inizio della puntata e poi alcune di queste le approfondisco con gli ospiti, vi facevo un po' un punto di questa prima giornata della data ufficiale di ripartenza della scuola con le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra Azzolina commossa con appunto tutti gli entusiasmi e le criticità su questa ripartenza così complessa. Adesso invece torniamo sull'orrenda storia dell'omicidio di Maria Paola Gaglione, questa ragazza bellissima, piena di gioia di vivere, una ragazza di un'intelligenza molto particolare, come ha detto la sua insegnante, la sua maestra che la seguiva da quando aveva 10-11 anni, la cui esistenza, come sapete, è stata stroncata dal fratello di 30 anni, Michele, che non voleva in nessun modo riconoscere alla giovane sorella la libertà di amare chi voleva. Quindi questa ragazza, la sua coetanea, che si sente e vive come un ragazzo, Ciro. Il fratello Michele, com'è andata questa vicenda? Con la sua potente moto, un'Honda, inseguito e poi speronato lo scooter su cui viaggiavano Maria Paola e il suo compagno, che amandosi volevano andare a convivere, e Maria Paola, cadendo, ha sbattuto violentemente la testa ed è morta sul colpo. Il compagno è finito in ospedale. L'uomo, il fratello di Maria Paola, si è giustificato dicendo: volevo darle una lezione, era infetta, cioè Ciro, secondo lui, l'aveva infettata, ma non di coronavirus. Secondo lui il fatto di amare una persona con un sesso, una sessualità fluida, transessuale, insomma, era come un virus, una malattia. E Michele Gaglione è in carcere e oggi la giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo in carcere, l'arresto, perché dice c'è rischio recidiva, è un soggetto socialmente pericoloso. Voglio parlarne con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, buonasera. Quindi l'arresto appunto è stato convalidato, no, dalla giudice per le indagini preliminari? Sì, l'arresto è stato convalidato e c'è un punto soprattutto delle motivazioni che mi sembra una perfetta sintesi di questa vicenda e che soprattutto cala questa vicenda così dolorosa e drammatica anche nel contesto in cui è avvenuto. Ed è il punto in cui il giudice dice in cui il giudice parla dello sprezzo da parte del fratello di Maria Paola verso un pensiero diverso dal proprio. Ecco, La sintesi, perché appunto era la incapacità ad accettare una relazione sentimentale diversa da quella che una cultura imperante e diciamo ma, maschilista, macista, insomma, no? Che è capisciata sì, la misoginia, capire, l'omofobia. Sì, esatto. Bisogna capire di che cosa stiamo parlando, di che contesto stiamo parlando, bisogna capire di chi sono i protagonisti di questa vicenda, perché questo non è soltanto un contorno, ma è la ragione stessa in cui maturano certi drammi, come quello di questi ragazzi, che è un dramma innanzitutto diciamo della vittima, del loro amore negato, ma è un dramma anche di tanti anni di abbandono, perché queste famiglie vivevano in quella che è diventata la nuova piazza di spaccio principale d'Italia, dopo che Scampia con le vele sono state diciamo oggetto di tante operazioni degli inquirenti, cioè il Parco Verde di Caivano, una zona di degrado, una zona di estrema povertà, una zona di miseria, dove già in passato si sono consumati crimini efferati, brutti, contro anche dei minori, una zona dove imperano le regole di un modo di vivere e di pensare camorrista, perché impone determinati schemi di vita, e in questi schemi non esiste, non è contemplata l'idea di una relazione appunto omosessuale. Per cui diciamo questa la morte di questa ragazza è frutto anche di tutti questi anni di abbandono di un territorio dove davvero l'unico baluardo, dove non c'è lavoro, dove l'unica non c'è possibilità di lavorare, anche se questa ragazza stava cominciando a frequentare una scuola per estetista, dove la droga rappresenta la principale il principale veicolo di guadagno per i più giovani, e la scuola è l'unico baluardo in un territorio che è troppo spesso abbandonato. Allora, anche se Raffaella, è vero tutto quello che hai raccontato, è così bene, e questa situazione di fortissimo, profondo degrado, però diciamo è purtroppo quella della cultura macista, maschilista, la misoginia, i femminicidi che vediamo, ma anche l'omofobia diffusi diciamo a ogni strato sociale. Per esempio è di oggi questa polemica che è scoppiata nei confronti di un consigliere di Fratelli d'Italia del Consiglio regionale di provinciale di Potenza, perché ha detto oggi, durante la discussione della legge Zan contro l'omofobia, ha detto: diciamo con chiarezza, così usciamo dagli equivoci, l'omosessualità è contro natura perché contraddice la legge naturale della vita, il diritto naturale, che è un diritto sacrosanto, la differenza tra sessi e la riproduzione della specie. Questo è il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Potenza, Michele Napoli, un passato in Forza Italia, poi in Fratelli d'Italia dal 2018, durante appunto il dibattito su una mozione contro la legge Zan che è stata bocciata. Poi è scoppiata la polemica sui social, c'è stato tutto un dibattito fortissimo, eccetera. Alla fine si è un po' scusato, però capiamo che se questo, diciamo, tessuto sociale, politico, eccetera, continua a esprimere anche queste dichiarazioni da parte di chi dovrebbe essere a un altro livello rispetto a chi è nato e vissuto in una situazione così degradata come dicevi, c'è poca speranza, no? È soprattutto questo il punto, cioè che se esiste già di per sé una cultura di un certo tipo che fa fatica ad accettare ad avere una mentalità più aperta, allora tutto questo in realtà, che sono così fortemente segnate da certi stereotipi, diventa un percorso ben più lungo e ben più complesso. Io credo alle parole che di sicuro la mamma disperata di Maria Paola, che vive un doppio dramma, ha affidato ieri a Don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde, quando ha detto che loro piano piano stavano cominciando ad accettare anche questa relazione, ma che insieme alla difficoltà di accettare questa relazione c'erano anche una serie di altri elementi che avranno probabilmente portato il fratello a questa inseguimento. Però Raffaella, hanno denunciato Maria Paola e Ciro, e comunque anche all'Arcighia di Napoli, se non sbaglio, continue minacce di morte da parte della famiglia di Maria Paola nei loro confronti. Sì, hanno ricevuto diverse minacce, hanno ricevuto, erano osteggiati in ogni modo verso questa loro relazione, e di sicuro non avevano l'appoggio, diciamo, della loro famiglia, ed è per questo che non appena era diventata maggiorenne Maria Paola era andata via di casa. Non avevano ancora una casa comune, lei veniva ospitata da alcuni parenti di Ciro ad Acerra, un'altra realtà vicina a Caivano, ma era andata via dal suo contesto proprio perché non era appena diventata maggiorenne, diciamo, per cercare di allontanarsi dagli ostacoli che la sua famiglia poneva. Certo. Questo è senza alcun dubbio, però quello che io dico è che la situazione di degrado in cui tutto questo è maturato è tutt'uno con quello che è avvenuto. Non a caso al fratello viene contestato l'omicidio preterintenzionale, cioè significa aggravato che da futili motivi, però significa che non era sua intenzione uccidere, significa che era andato per cercare di riportarla a casa, probabilmente anche con intenzioni di colpire, di far del male, ma non con l'intenzione di uccidere, altrimenti sarebbe diventato omicidio volontario. Ciro tra l'altro ha detto, mentre tirava i calci al nostro motorino, diceva ti taglio la testa. Comunque, insomma, vedremo nei prossimi giorni come procede questa inchiesta. Raffaella, ci dobbiamo purtroppo lasciare, ma hai raccontato tutto nel modo migliore. Grazie Raffaella Calanda. Ciao Roberta, grazie. Ciao Raffaella. Ciao. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Ho il piacere di avere ospite qui Effetto Notte il professor Francesco Lefoche, professore di immunologia, primario di immunoinfettologia al Day Hospital del Policlinico Umberto I di Roma. Buonasera professor Lefoche. Buonasera, responsabile del Day Hospital, non primario, responsabile e tra l'altro con grande responsabilità, l'ho vista varie volte in modo divulgativo e molto chiaro, insomma, parlare di questa pandemia che sta tenendo in ostaggio il mondo ormai da mesi. Professor Lefoche, le chiedo sintesi perché tante domande ho in mente di farle. Per esempio, questo allarme lanciato dall'OMS, molti già stanno scrivendo stiamo tranquilli perché tanto l'OMS non ne ha azzeccata una. Insomma, il fatto che ha annunciato per l'Europa un autunno molto duro in cui si vedrà un aumento dei decessi provocati da coronavirus, la trova uno scenario attendibile? Che cosa ne pensa? Tra ottobre e novembre, dicono. In Europa credo che sia un lieve aumento, credo che ci possa essere. In Italia credo molto meno, cioè nel senso che noi abbiamo fatto un lockdown abbastanza cronologicamente significativo, per cui abbiamo ridotto la carica virale che circola socialmente, l'entropia sociale del virus è abbastanza in modo significativo. Abbiamo avuto un lieve rebound effect dopo il periodo estivo, e questo ce l'aspettavamo, io mi sarei aspettato anche forse un po' di più, però controlliamo abbastanza bene tutto il quadro, soprattutto del territorio e anche i ricoveri, quindi io non vedo all'orizzonte all'orizzonte grosse probabilità di un aumento di decessi, insomma, di aumento di decessi. Senta, invece questa cosa del gomito, no? Da un certo punto in poi, dopo che è scoppiata la pandemia di coronavirus, si è cominciati a salutare toccandosi il gomito. Oggi l'OMS dice no, neanche quello, per due motivi: perché ci si avvicina troppo per toccarsi reciprocamente i gomiti, e poi perché anche attraverso la pelle si potrebbe trasmettere il coronavirus. È possibile quindi? Ma guardi, è molto improbabile che questo avvenga. Uno, perché i tempi di saluto sono così rapidi che credo che non ci sia proprio nessuna probabilità. A me non piace in termini proprio di azione, però non credo che questo possa essere una motivazione di contagio. Professor Lefoche, è iniziata la scuola ufficialmente oggi per la gran parte delle regioni in Italia. Se lei dovesse dare proprio un piccolissimo sintetico decalogo per i genitori che magari sono in ansia per i propri bambini, i propri figli, anche magari riconoscere i sintomi, non so. Ma guardi, io depotenzierei molto questa cosa. Uno, perché i bambini hanno un sistema immunitario molto pronto, allenato, tonico, perché hanno avuto le vaccinazioni di recente, quindi hanno un'immunità innata molto pronta, quindi hanno una diciamo riduzione dei contagi netta. Sono stati fatti degli studi su più di un milione dei bambini, quasi 2 milioni dei bambini, pochissimi sono stati contagiati. L'altro è di ridurre emozionalmente la fase empatica del genitore rispetto al bambino. La cosa importante è misurare bene la febbre a casa, perché è una responsabilità importante, cioè nel senso che noi al di là del bambino, di nostro figlio comunque mettiamo in campo la salute pubblica, cioè quello che possiamo creare il danno agli altri. Quindi io non credo che un genitore responsabile, io credo che siano tutti responsabili, soprattutto perché diciamo la persona che vuole più è più effettivamente coinvolta rispetto al bambino è proprio il genitore. Quindi non credo che ci possano essere delle defiance in questo diciamo contesto. L'altra cosa è che comunque noi dobbiamo cercare di decomprimere proprio questa emozionalità anche nei confronti del personale scolastico, che per la prima volta è in presenza di una condizione di questo tipo. Quindi dobbiamo fare in modo che siano nelle condizioni migliori, anche se in termini psichici che proprio in termini emozionali. Professore, quindi io, prego. Sì, invece questa cosa che lei aveva già anticipato tempo fa dei test relativi agli anticorpi, vedevo che potranno essere testati già in Italia tra fine di quest'anno, quindi a breve 2020 e primi 2021. Anticorpi monoclonali, cosa sono? Sì, sono molto importanti, sono molto importanti perché è una terapia altamente innovativa. Gli anticorpi monoclonali sono ormai sul campo per le malattie infiammatorie, le malattie autoimmuni, le malattie del grosso intestino, per il cancro e per le leucemie, che sono in fondo un cancro, ma insomma sono degli anticorpi che reagiscono verso diciamo bersagli particolari, per cui hanno avuto prognosticamente, hanno cambiato l'evoluzione di molte patologie. In questo caso in particolare sono degli anticorpi rivolti verso lo spike, verso la proteina che neutralizza l'entrata del virus rispetto alla cellula. Quindi sono degli anticorpi che sono già stati testati, sono stati selezionati circa 450 anticorpi da plasma immune, cioè da plasma preso da pazienti che hanno già avuto la malattia. Di questi 450 anticorpi, 3 sono altamente attivi, per cui bloccano il virus nel giro di poche ore e restano in circolo per qualche mese. Quindi io credo che questa terapia potrebbe essere già pronta prima del vaccino, quindi intorno a febbraio-marzo. Sono anticorpi già testati, quindi non hanno effetti collaterali. In pochissime dosi, 1 millilitro, 1,5 millilitri, riescono a bloccare la malattia e a fare in modo che il paziente guarisca in poche ore. Quindi io credo che questo sia una condizione importante, cioè sia degli armamenti particolari rispetto a questo virus. Ce ne sono già, ci sono degli antivirali che funzionano molto bene, c'è la terapia corticosteroidea. L'importante è prendere il paziente nel momento giusto, cioè iniziare la terapia il più precocemente possibile quando occorre. Benissimo. Quindi al di là di questo, la prognosi di questa sindrome Covid-19 data dal virus SARS-CoV-2 è praticamente migliorata moltissimo negli ultimi 2 mesi. Quindi io direi che insomma possiamo essere abbastanza fiduciosi per il futuro. Bene, grazie mille professor Francesco Le Foca. Prego. Grazie, buona continuazione e buon lavoro. Grazie a lei, buon professore. Lavoro. Grazie. L'estate sta finendo, è un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Diciamo che a me non va soprattutto che passi l'estate, caro Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Però il sindaco di Forte dei Marmi in Versilia ha detto: siccome abbiamo buone possibilità che il settembre abbia delle invitanti temperature, teniamo i stabilimenti balneari aperti fino al 1° novembre. Fa bene, Nikos? Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Beh, oddio, fino al 1° novembre è un po' un azzardo, però effettivamente almeno per una settimana un potente campo di alta pressione nordafricana interesserà mezza Europa, anche l'Italia, e quindi nei prossimi giorni ci attendono ancora delle belle giornate soleggiate, a parte qualche breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino, però insomma ecco, sulle località di mare in pianura padana saranno veramente le giornate estive, anche nei prossimi giorni con valori prossimi ai 30 gradi di giorno, e anche il prossimo weekend con ogni probabilità sarà ancora di bel tempo, dal sapore estivo quasi ovunque, quindi io direi che tranquillamente possono arrivare a fine settembre con le località di mare aperte, perché insomma grandi cambiamenti almeno per i prossimi 10 giorni ancora non se ne vedono. E questa è un'ottima notizia. Vedo adesso Donald Trump, scienziato americano, Trump che va controcorrente e si dice convinto che il clima diventerà più freddo. Ora poi, Nikos, mettetevi d'accordo, ci dirai la prossima volta, va bene? Va bene, volentieri. Grazie Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nikos, ci aggiorniamo brevemente alle 22. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.